Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11:10. Mi chiedevo, se qualcuno vi facesse una domanda a bruciapelo, magari mettendovi proprio un microfono davanti, vi chiedesse: sei timido? Voi che cosa rispondereste? Non arrossire quando ti guardo. Mi sento timido quando non sono preparato. Mi sento timida quando sono in palestra, perché non mi piace che le persone vengano lì a fare conversazione. Quando non sono preparato sono in difficoltà su certe cose, o si toccano argomenti che mi sono sconvenienti. Ho difficoltà a parlare in pubblico, davanti a gente che non conosco soprattutto. Quando magari non conosco bene la persona che ho di fronte, quindi non so che cosa dire, non ho argomenti, ecco, in quel caso, quando non ho argomenti di discussione, divento timido. Sì, io non mi sento mai timido perché sono sicuro di me. Non arrossire. E voi che cosa avreste risposto? Vincete la timidezza, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24 e raccontateci, se ce la fate, in quale circostanze la vostra timidezza fa capolino o vi travolge. C'è chi avvampa davanti al capo ufficio, al professore, all'autorità in genere, anche ai vigili. A me mettono molto a soggezione i vigili, ad esempio, perché so che ho fatto sempre qualche cosa che non va. Chi si sente a disagio, magari insicuro, non adeguato nei confronti dell'altro sesso. Chi trova oltremodo, direi, faticoso reggere la conversazione con degli sconosciuti. Ma a proposito di circostanze e di luoghi ad alto rischio di, usiamo questo termine, timidezza? Ciao Antonella! Ma che meraviglia questa giacca, Gianni! Sei bellissimo, sei elegantissimo! C'ho le mani che mi sudano, senti, sono agitato. Vieni qua, prendi il centro del palcoscenico, abituati! Ma questo, no, vabbè. Perché è tuo, vedi, adesso è tuo. Ecco, come stai? No. Agitato, possiamo dare inizio alla 61ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Beh, il palco dell'Ariston è un vero banco di prova anche per artisti molto navigati. D'altronde la posta in gioco, lo sappiamo, è alta, gli occhi sono tutti puntati a cogliere anche quel piccolo dettaglio, la defiance, la goffaggine, un balbettio, un piccolo errore. E sono sicura che il nostro dottor Francesco Aquila, psicologo e psicoterapeuta cognitivo, che sta seguendo con grande interesse il festival per suggerirci ogni giorno la canzone ricaricante su cui, no, da cui prendere spunto per prendere la giornata in modo migliore, non si è fatto sfuggire nulla. Dottor Aquilar, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dottore, anche chi è abituato a stare sotto i riflettori, no? Perché ha anni e anni di carriera alle spalle con tanti successi, può provare un'improvvisa timidezza. Secondo lei, sul palco dell'Ariston, chi è stato il più timido? Chi ha dovuto proprio cercare un po' di soffocare l'imbarazzo, la timidezza? Poi vedremo se tutti questi termini sono sinonimi o hanno delle sfumature, ma insomma. Ma tra gli esperti proprio il nostro Gianni Morandi, che ha cercato di farsi in qualche modo supportare da quella che era la squadra che lui aveva costruito, ricercandone continuamente lo sguardo, il contatto fisico per tranquillizzarsi, ma avendolo ammesso lui stesso, che è anche una cosa bella perché significa che l'importanza che lui attribuiva a quell'evento era particolarmente forte e quindi può essere considerata anche come un segnale di rispetto sia per la situazione sia per il grande rituale antropologico degli italiani che è rappresentato dal Festival di Sanremo. Mentre tra i ragazzi, tra i cantanti, ha notato più timido, alle prese con questa emozione, sentimento, modo di porsi? Tra i giovani concorrenti ci sono stati proprio due molto bravi ieri sera, che sono tra l'altro quelli che sono stati promossi alla serata successiva, sì? Che sono stati Serena Abrami, che ha cantato Lontano da tutto, che era una canzone, poi la analizzeremo, molto briosa e deliziosa, sì? E che sembrava mostrare una timidezza situazionale di quella nelle quali le persone vorrebbero scomparire. apparire, sì, che è stata talmente forte che Gianni Morandi se l'è dimenticata quando ha fatto le interviste alle quattro persone giovani che erano presenti sul palco. Quindi è riuscita... In questo caso la timidezza ha funzionato, è scomparsa davvero quella... Si è resa invisibile, esatto. Quel mantello che ciascuno di noi vorrebbe avere nelle situazioni in cui si sente un po' a disagio, ecco, quella coperta che ci rende invisibili. Ma lei mi diceva che c'era un altro giovane che aveva catturato la sua attenzione. Sì, Rafael Gualazzi, che a mio modo di vedere dal punto di vista musicale è stato l'autore e l'interprete più innovativo, perché è una canzone che cambia l'umore dell'ascoltatore con il suo jazz umoristico e che, malgrado dal punto di vista musicale, rappresenta in qualche modo un nuovo Buscaglione, più adeguato e moderno, mostrava nel non verbale tutte le caratteristiche invece della timidezza strutturale, cioè di una persona che ha difficoltà ad esprimersi nel contatto, soprattutto se in pubblico, ed esprime tutta la grande ricchezza delle sue emozioni direttamente in musica e con un testo piuttosto scanzonato e irriverente, quella stessa irriverenza che la sua timidezza gli impedirebbe di mostrare in altro modo. Bella, mi piace questa analisi. Intanto chiedo ai nostri amici da casa se hanno notato, se vogliono diventare anche loro un po' commentatori con un taglio psicologico del Festival di Sanremo, possono anche chiamarci all'800 24 00 24 o scriverci al 349 238 6666. Questo potrebbe essere un esercizio, perché magari parlando di altri, parlando della timidezza degli altri, si vince la propria. Dottor Aquilar, che dice? Come no, è un modo per cominciare ad elaborare la timidezza, che oltre ad essere un problema è una fonte straordinaria di ricchezza interiore. Abbiamo subito un ascoltatore a cui vorrei dare la parola, è Augusto, ci chiama dalla provincia di Frosinone all'800 24 0024. Buongiorno Augusto. Buongiorno dottoressa. Che piacere, allora, lei è timido o un po' sfrontatello? Allora, no, assolutamente, io credo di aver mantenuto la mia timidezza nella consapevolezza che è anche una risorsa. Le spiego, io ero una persona, ho 55 anni, adesso a giugno, ero una persona profondamente timida, le dico che a scuola studiavo per il 10 per prendere appena il 6, sì. Ma poi per avendo impattato un tipo di attività professionale che mi doveva spingere a stare in contatto con molte persone, e, diciamo, la passione per questa attività è stata ben superiore alla timidezza che avevo, per cui diciamo, leggendo accuratamente determinati testi, ascoltando determinate informazioni, eccetera eccetera, ho studiato molto per questo, sì. Ho eliminato talmente tanti tabù per cui ho tratto le conclusioni che diciamo la mia esperienza poteva essere utile anche da persona, da ex persona timida, sì. Poteva essere utile anche ad altre persone, per cui ho tenuto anche relazioni a livello internazionale, a livello nazionale, dei seminari dove erano presenti 1000, 1300, 700, 500 persone, per cui la passione per questo tipo di attività era ben superiore e non mi interessava se traspariva anche un po' di timidezza, perché io paragono anche la timidezza alle emozioni, cioè se l'emozione traspare, traspare anche la naturalezza, l'importante, certo. È quello che si deve, è quello che si deve dire, cioè il succo del discorso che si deve fare è che lo si faccia con passione, ecco, questo è l'unico trucco che io ho insegnato diciamo ai miei collaboratori, alle persone alle quali mi rivolgevo. E funziona, Augusto. Qualsiasi cosa con la passione. E la passione si sente, come si dice a Radio 24, grazie Augusto. Dottor Aquilar. Sono d'accordo con il nostro ascoltatore, passione e conoscenza sono un rimedio importante nei confronti dell'eccesso di timidezza e anche non aver paura delle emozioni. E naturalmente, come diceva il nostro ascoltatore, essendo stata una persona che aveva sofferto di questa difficoltà, è riuscito a trovare le parole adatte per spiegare anche ad altri come quella timidezza poteva essere una risorsa, come non bisognava averne paura e come poteva essere tranquillamente coniugata anche con la passione. Arrivano molti messaggi di ascoltatori che mi raccontano che in qualche momento della giornata, in qualche situazione, avvampano o si sentono un po' a disagio, si sentono quindi timidi. E dottor Aquilar, ci accorgiamo che sembra che ci siano tante forme di timidezza, oppure la timidezza è una e ha tante facce, perché c'è chi arrossisce per uno sguardo, chi va in crisi quando deve parlare in pubblico, c'è chi è anche estroverso e strafottente nella vita, con i colleghi, sul lavoro, e poi diventa un po' un koala quando si trova tu per tu con la persona per la quale prova interesse. Sono vere entrambe le cose, cioè la timidezza da un lato è un continuum, perché può andare da una forma non patologica di ansia sociale, e quindi essere un disagio che si manifesta solo in alcune situazioni e anche col senso di arrossire, come appunto lei citava prima, fino a forme intense di fobia sociale generalizzata, fino ad evitare gran parte delle situazioni sociali. E mentre la possiamo valutare come un continuum, possiamo anche valutarla come composta da diversi elementi che hanno in comune la paura di ricevere un giudizio altrui o una valutazione negativa da qualcun altro che in quel momento viene valutato come molto importante o molto significativo. Voglio leggere alcuni messaggi. Timido, ma insegno e vinco la timidezza parlando, ci scrive Fabio. Ed è un po' la stessa cosa che ci ha raccontato il nostro primo ascoltatore. Ci sono timidi che in qualche modo riescono a vincere pur mantenendo questa caratteristica, questa peculiarità del loro carattere, no? Mentre ad esempio Maria mi scrive: non sono timida, ma avvampo per eccessiva emotività. Cosa fare? Beh, e quando si diventa rossi c'è anche la paura di diventare rossi. Certo, la cosiddetta ereutofobia, che per alcune persone può diventare una preoccupazione assoluta. Credo che possiamo dare a questa ascoltatrice il suggerimento che ci dava il primo che ha mandato notizie di sé, il primo ascoltatore che abbiamo sentito. Non aver paura di mostrare il rossore, perché gran parte della timidezza si mantiene perché riceve approvazione sociale. Il timido viene in qualche modo, tra virgolette, aiutato, incoraggiato, viene considerato una persona sensibile, capace di comprendere, e da questo punto di vista la utilizzeremo come una risorsa. Se gli altri si accorgono che sono timido, saranno meno competitivi con me. Può essere un vantaggio. Allora, io ho Camillo da Pescara che mi scrive un lungo SMS. Noi abbiamo stimolato, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontare la loro timidezza, i modi in cui diventa magari un'opportunità o se a volte diventa una trappola, se sono riusciti a superarla. Ma abbiamo detto: facciamo questo esercizio, proviamo a raccontare la timidezza, dei segnali di timidezza che abbiamo notato, abbiamo colto sul palco dell'Ariston. E ad esempio Camillo di Pescara mi scrive: di sicuro la camminata di Morandi tradisce il suo imbarazzo, si muove a scatti come se stesse riflettendo su quale piede muovere ogni volta, ma le ragazze di sicuro appaiono le più impaurite, non riescono a non pensare alle copertine del giorno dopo che attendono qualche loro sgarro. Anche Luca e Paolo non sono riusciti a possedere il palco e sono sopraffatti dalla paura del giudizio. Stasera si attende l'unico vero estroverso della TV italiana, Benigni. Insomma, Camillo, devo dire, ha fatto un commento quasi da critico televisivo. Dottor Aquilar. È un commento molto interessante. Non sono totalmente d'accordo sull'imbarazzo di alcune persone. Dal mio punto di vista, Luca e Paolo hanno retto splendidamente la scena nella prima serata e nella seconda hanno avuto un po' paura di esagerare, ma li vedo assolutamente a loro agio e anzi sono quelli più sciolti. E tra le donne del palco, sì, Belen sicuramente è in grado di reggere l'emozione mostrando quello che prova e quindi sentendosi a suo agio. Un po' più in difficoltà, sono d'accordo con l'ascoltatore, sembra Elisabetta Canalis, che non sa che fare. Per quello che riguarda Morandi, una persona che ha fatto dell'informalità lo stile della sua vita, sì, si trova costretto ad essere formale dall'abbigliamento, dai tempi, e questo lo mette a disagio, unendoci anche la responsabilità del gestire l'evento antropologico per eccellenza della comunità italiana. Quindi questa è una lode, come dicevo prima, agli ascoltatori e ai critici che Morandi fa. E la sua piccola goffaggine viene perdonata volentieri. Sì, 800 24 00 24, le goffaggini dei timidi, insomma, in fondo poi arrivano sempre al cuore, li coccogliamo di più. Però, dottor Aquilar, i timidi e gli introversi vengono in genere percepiti anche un po' come persone un po' difficili, perché tendono a rimuginare, sono incapaci di reagire, direi antisociali, perché nella società oggi si premia proprio l'estroverso, quello che ha contatti facili, si butta fuori, no? E spesso le critiche arrivano da chi è riuscito proprio a superare la timidezza. Insomma, l'amico timido a volte può dare qualche problema. Sicuramente può dare qualche problema, perché se si chiude in se stesso, se anziché cimentarsi, sia pure con qualche difficoltà con le relazioni sociali, tende a chiudersi e a diventare evitante, diventa sicuramente un problema. E per questo possiamo in qualche modo fare delle operazioni per rassicurarlo e in qualche modo coinvolgerlo. Ma io ci tenevo a citare una bellissima frase del filosofo e scrittore Mircio Ranna, che dice: la timidezza, fonte inesauribile di disgrazie nella vita pratica, è la causa diretta, anzi unica, di ogni ricchezza interiore. Se noi diamo questa consapevolezza ai timidi, la loro timidezza pian piano si scioglierà e a questo punto saranno aiutati a utilizzarla come risorsa anziché come problema. Senta, dottor Aquilar, però, perché sennò adesso sembra che gli estroversi abbiano tutti i difetti e i timidi siano i migliori. Diciamo che è vero che i timidi si sentono spesso gli occhi puntati addosso, ma se vogliamo dircela tutta, c'è anche un pochino di presunzione nei timidi. C'è ancora un po' di spumante, ti va? Festeggiamo. Ah, ma tu volevi brindare? No, volevo così. Ma sì, dai, volevi brindare. Cosa c'è di male ad ammetterlo? Ma niente, cioè, io faccio sempre la prima. Cioè, niente, mica. Si volevo brindare. E adesso dove vai? Resta qui, no? No, devo andare un attimo in bagno. Senti, Gaetano, questa storia della timidezza è, secondo me, è una cosa dietro la quale ti nascondi. Tu sei sempre troppo preoccupato di te stesso, di quello che fai, che dici. Sei convinto che gli occhi di tutto il mondo siano sempre su di te, a spiarti, a controllarti. E questo ti lega, ti impedisce di abbandonarti. Ma questa è presunzione, non è timidezza. Ma come puoi pensare che la gente avrebbe nient'altro da fare che occuparsi di quello che fai tu? Non lo so, cioè, boh, io sono fatta così, sono strane. Non dovevi fare pipì? Sì, ma cioè, quando sta un'altra persona davanti, non riesco a... Oh, ma perché non lo dici? Te la chiudo la porta, vai! Dottor Aquilar, ha sentito? Sono d'accordo, a volte credono magnifico, di essere l'ombelico del mondo. Sì, Ricomincio da tre è uno dei miei film preferiti. Anche il mio. Vede che qualcosa ci lega, dottor Aquilar. In effetti è un po' vero, si sentono sempre gli occhi puntati addosso. Ma è una buona indicazione. Noi quando, soprattutto i figli adolescenti che hanno questi complessi, non stanno ancora bene con il loro corpo, devono prendere le misure con questo corpo che cambia e stanno ore e ore davanti allo specchio, noi tante volte, io per prima come mamma, dico: ma dai, ma insomma, se ti piaci esci, vuoi mica che tutti guardino te? È una buona indicazione da dare? Sì, è una buona indicazione, anche se nell'adolescenza una parte della timidezza è fisiologica, e quello che gli adulti possono fare è insegnare ai ragazzi come ci si comporta nelle situazioni sociali. Dottor Aquilar, dobbiamo interromperci perché Fabio Cantadori, che è in regia la parte tecnica, ha messo proprio il cartellino, il fogliettino giallo, perché ci sono i mercati e il meteo. Vi aspetto qui. Essere e benessere. Arrossire quando ti guardo. Quando so che una cosa non la so fare bene, quando mi sento osservata. Sento timido quando mi trovo in una stanza con molta gente e devo parlare, allora sì, mi intimidisco. No, tendenzialmente mai, chiaro che l'intervista mica, no, mai, poco, non sono uno che si imbarazza molto spesso, anzi quasi mai. Non mi sento mai timida perché sono una persona estroversa e sicura di me stessa. Mi sento timida quando devo parlare al microfono e quando devo essere intervistata. No. E a voi, quando scatta la timidezza? 800 24 00 24. Non fate i timidi. Qualche timido lo conoscerete pure voi, se non siete voi dei timidi magari recuperati. Vorrei sapere se per voi la timidezza è un ostacolo o un'opportunità, perché mi scrive Francesca: sono stata timida, ma la mia timidezza ha fatto di me una rubacuori. Adesso ho 50 anni e mi chiedo, ma la ero o la facevo? Dottor Aquilar, si può sfruttare a proprio vantaggio la timidezza? Molti uomini la sfruttano, perché poi c'è il senso materno, eccetera, ma stavolta è Francesca che è riuscita a fare della sua timidezza un modo per essere una femme fatale, per strapazzare i cuori dei suoi corteggiatori. Ma probabilmente c'è riuscita finché non se n'è accorta. Penso che sia difficile, a meno che non si tratti di un attore consumato, simulare la timidezza. Quindi lo era. Con tutti i sintomi psicosomatici non mi posso procurare l'arrossimento deliberatamente. Il punto è che questa ascoltatrice se n'è accorta dopo, e forse quando se n'è accorta ha perso la possibilità di utilizzarla. Mamma mia, non era più tanto timida. Peccato. Allora, noi abbiamo degli ascoltatori e poi vorrei presentarvi un ragazzo che insieme a tre suoi compagni ha sviluppato è venuta un'idea. Insomma, già non sono timidi, sono giovani. Intanto saluto Matteo Benetton. Ciao Matteo. Ciao. Ecco, per toglierci ogni imbarazzo, ogni timidezza, non siamo parenti di nessuno, vero Matteo? No, non siamo parenti diretti, forse molto alla lontana. Vabbè, quello può sempre fare comodo. Intanto, Matteo, ti metto lì e voglio sentire Luigi da Padova. Buongiorno Luigi. Buongiorno a lei. Io sono perdutamente timido. Oh. Però la timidezza per me è stata un'opportunità incredibile da giovane. Perché io anche, lei come la nostra Francesca. Sì, io rimorchiavo che era un piacere. E il disagio che io provo, lo provo nell'avvicinarmi troppo alle persone, soprattutto all'inizio. Oppure io ho fatto il venditore nella mia vita, pensi un po'. Sì. Il disagio l'avevo quando si avvicinavano le persone, donne, uomini, chiunque. Si avvicinavano troppo alla mia persona, sì. E io cominciavo a sbroccare. Sbroccavo, mi venivano dai piedi fino ai capelli, mi venivano queste lampate pazzesche, però riuscivo a dominarle bene, abbastanza bene. Provavo un disagio profondo. Ed era una. Senta, una Luigi, dato che, Luigi, mi scusi se la interrompo, ma dato che lei parla ormai con l'imperfetto, che cosa le ha fatto scattare invece? Cioè, che cosa l'ha fatta passare dalla parte dei timidi che si sanno gestire o dei non timidi, insomma? Ma io rimango ancora oggi timido perché ho ancora le stesse reazioni. Quando una persona si avvicina troppo a me. E avverto questo disagio, a volte arrossisco ancora oggi. Senta Luigi, ma lei mi sta dicendo la sua età, ma nonostante, comunque la timidezza fa ancora breccia nel cuore delle signore oggi che lei incontra? No. Oggi no. Solo da giovane. Luigi, grazie. Sì. Andiamo a Giuseppe da Como, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe. Sì, dicevo alla signorina io. No, lo dica anche a noi, perché le nostre centraliniste sono bravissime, ma noi non sappiamo che cosa ci raccontano. Giuseppe. No, non mi sento un timido, però diciamo che la mia timidezza aumenta a seconda della platea che c'ho davanti. Se c'è poca gente me la cavo benissimo, se invece la gente è tanta ho più timore, forse perché ho paura del giudizio degli altri, quindi... Ci sono più certo paura. Insomma, abbiamo un po' paura di metterci in gioco, ma è naturale, dottor Aquilar, che dice? Certamente, perché la timidezza rappresenta in qualche modo un modo per competere per l'attrattiva. Sì. Io competo per essere attraente e voglio controllare se l'interlocutore mi trova attraente o no. Se ce n'ho uno solo di fronte ci riesco più facilmente, se ho una grande platea non riesco a controllare e questo mi manda a volte nel panico perché temo di non essere attraente quanto vorrei. Allora, adesso io vorrei raccontarvi perché in linea abbiamo Matteo Benetton. Perché parlando di timidezza, parlando di timidi nella società di oggi, noi sappiamo che anche molti timidi si rifugiano nella rete. Per alcuni internet diventa quasi una cuccia calda e rassicurante dove trovare senza fatica degli amici e soprattutto senza proprio il dover mettersi in gioco. Questo dottor Aquila era stato un po' analizzato, no? Anche dai voi addetti ai lavori, il fatto che internet in qualche modo è uno strumento che il timido utilizza per relazionarsi con gli altri, ma in un qualche modo si taglia le gambe da solo, sì o no? Perché alimenta quella parte della timidezza che potrebbe poi diventare una trappola. Ma sì, c'è una nuova tecnologia che dovrebbe trasformare questa, ispirandosi a internet, questa cosa in una opportunità di socializzazione. Matteo Benetton e i suoi tre amici hanno proprio inventato e stanno lavorando a qualcosa che lui ci racconterà, che proprio farà socializzare le persone, quindi trovare l'amico in carne e ossa. Matteo, è così? L'ho spiegata più o meno bene? Io sono un po' in soggezione con te perché tu sei allievo di economia della scuola Sant'Anna di Pisa. Cioè, esatto, come gli altri due ragazzi cofondatori e un altro ragazzo dell'università. Ecco, non so se dico poco. Ecco, allora, ci vuoi spiegare come vi è venuta l'idea e se questa potrebbe essere una strada per evitare che, insomma, ci si rifugi solo in internet e quindi si abbiano solamente relazioni un po', no? Fittizie, un po' troppo lontane. Sì, la nostra idea nasce proprio da questo, ovvero dalla percezione di un bisogno, che è il bisogno proprio di riportare la socializzazione in quella che è la vita reale. Sì. E da qui la nostra invenzione di creare una specie di social network di prossimità. Secondo noi, infatti, Facebook, possiamo dire, ha rivoluzionato il modo di relazionarsi on the web. Anche se a volte proprio a scapito di quella che poi voi definivate la socializzazione nella vita reale. E quindi noi abbiamo forse individuato e vogliamo trasferire le potenzialità dei social network tradizionali nella vita reale. Questo come? Sostanzialmente creando, cioè ogni utente può crearsi un proprio profilo personale che condivide con le persone che sono fisicamente presenti in un determinato contesto. Ma bello! Esatto, in questo modo io non è che vedo di una persona solo, non so, l'aspetto fisico, come è vestita, ma posso andare un po' oltre queste caratteristiche. Per esempio, la nostra applicazione consente come prime cose di vedere gli interessi degli amici in comune. Sì. Due cose che secondo noi possono essere un ottimo input poi per avviare una comunicazione. Dottor Aquilar, conferma? Sono assolutamente d'accordo, mi sembra un'eccellente idea. Ma sono bravi. E allora, Matteo, raccontami bene, perché quando sarà pronta questa cosa? Che... L'applicazione sarà scaricabile gratuitamente a partire da maggio, ma per qualsiasi informazione e novità riguardo potete seguirci per adesso sul gruppo Facebook che è Kiwi The Social Evolution. Bello, Kiwi perché è proprio come l'uccello Kiwi esotico, vero? Che non riesce a volare ma non si stanca mai di provarci. Esatto, secondo noi Kiwi è un nome che resta ben impresso nella testa di una persona. E rappresenta appunto un animale che oggi ancora non sa volare, però con costanza ci prova e ci riprova e noi siamo convinti che prima o poi ce la farà. Matteo, tu non sei per nulla timido, vero? Direi di no. Bravo Matteo, e posso dire, ricordati di me e del dottor Aquilar quando adesso poi diventerete famosissimi, sarete su tutti i giornali, perché vi abbiamo un po' fatto da papà e da mamma in questa occasione. Ci risentiremo sicuramente. Va bene, dottor Aquilar, abbiamo puntato su un cavallo giusto, forse. Assolutamente, ma questa tra l'altro è la tendenza che è presente in tutto il mondo, è la cosiddetta psicoeconomia. Cioè quella di applicare la creatività e i processi, lo studio e la conoscenza dei processi psicologici a variabili economiche che possono essere utili non solo per rilanciare dal punto di vista economico la società occidentale, ma anche per migliorarla nel punto del tipo di relazioni. Il vantaggio di questa idea brillante che suggeriva Matteo è quello che gli incontri si fanno poi in un contesto in qualche modo protetto. Fantastico. E quindi riusciamo a soddisfare più esigenze. E quindi anche il timido noi l'abbiamo inserito, perché insomma i timidi avranno un bastoncino, una chance in più. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Torniamo. Spazio alle vostre telefonate, 800 24 00 24. Consigli per rimanere, per conservare la bellezza della timidezza ma non essere a disagio. Essere e benessere. Si chiama Roberta, dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Roberta. Buongiorno, io volevo chiedere un consiglio per mia figlia Francesca. Ha 5 anni e con noi è molto, molto vivace, molto allegra, non ha problemi di timidezza. Sì. E questo invece non avviene quando è in contatto con altre persone, specialmente alla scuola dell'infanzia, interviene solamente se appunto viene stimolato dalle maestre, altrimenti non parla mai. Volevo capire e sapere da voi per cortesia se è giusto intervenire come genitori e come farlo. Grazie. Grazie Roberta. Dottor Aquilar, noi abbiamo parlato di timidezza, forse la bambina di Roberta è quello che possiamo definire introversa. E dà anche qualche piccola difficoltà di relazione sociale. Dovremmo anche domandarci se le insegnanti che si prendono cura di questa bambina sono riuscite o non sono riuscite a sintonizzarsi con i bisogni e con le caratteristiche della bambina. E il primo suggerimento agli insegnanti sarebbe quella di distribuire un po' più di lodi e gratificazioni non solo a questa bambina ma a tutte le bambine, perché proprio perché la timidezza rappresenta un competere per l'approvazione sociale. Nel momento in cui noi diamo questa approvazione sociale, la timidezza si riduce. Secondo suggerimento, chiedere come genitori alla bambina di raccontare un po' di più come essere quella bambina in quella situazione di scuola, tollerando che la bambina all'inizio non sappia dare parole alle sue emozioni. Quindi una conversazione tranquilla su quello che la bambina prova in quel contesto, ricordandosi che essendo una bambina piccola potrà dire poco, ma quel poco sarà prezioso. Renato ci chiama da Milano. Buongiorno Renato. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e agli ospiti. Io sono un ex timido. Ex, sì, perché poi a un certo punto della mia vita diciamo che c'è stata un'evoluzione. Ho cominciato a scrivere canzoni, io canto, ho sempre cantato. Infatti, io dicevo che bella voce, dottor Aquilar, non ha sentito anche lei che bella voce che ha Renato? Certo, e anche con un tono musicale nella prosodia. Mamma, vedi, vedi cosa aggiunge il dottor Aquilar. Quindi lei scrive. Non ho sentito. Dottor Aquilar. Ho detto un tono musicale nella prosodia, cioè nel modo con cui c'è l'onda sonora della sua voce è musicale. A proposito dei complimenti che noi vogliamo fare, che così riducono la timidezza, ma Renato non è più timido, quindi scrive e canta. Io canto, scrivo canzoni. Stavo scrivendo, ho appena terminato sull'autostrada, perché mentre viaggio io così ho l'ispirazione. Me la canta? Sì. Sì, andiamo. Un pezzettino. Sì. Allora, so qui l'appunto, Non cambiare il colore, hai capelli corvini, i tuoi occhi rubati alle stelle, mi trafiggono il cuore, la tua bocca sta ferma, anche se può parlare, le tue mani mi sfiorano leggere. Non mi voglio svegliare. E poi ma, vabbè, dice. Però Renato, Marina, sempre queste marine. Ma perché? Ma perché sempre queste marine? Nessuno Marina, non c'è nessuno che dice Nico. Dottor Aquilar, ma noi adesso abbiamo prima sentito Matteo Benetton, che si è avuto la cosa geniale. Adesso noi la mettiamo sulla pagina di Essere Benessere, Laura. Mi sta dicendo di... Non lo so se Laura Vanossi la vuole mettere, perché Renato è un talento, dottor Aquilar. Sì, e racconta in qualche modo l'emozione nel modo nel quale lo fanno i musicisti, la cui mente secerne musica. E quindi lui che sta in autostrada prova un'emozione con un ricordo e cerca di fissarlo con delle parole. E non è un caso che parte col non cambiare. quando siamo innamorati, la cosa che noi vorremmo di più è che l'altra persona non cambiasse. Soprattutto su di noi, non cambiasse idea su di noi. Certo, intanto, ma anche non cambiasse di persona. Intanto, Renato, se le viene in mente una canzone con Nico, io sarei certo, veramente felice. Forse perché, mi scusi Nicoletta, sì, forse perché lei viene subito dopo Nicoletti, no? E questa è una turbativa. E può darsi, però tutti sono Marina e poi i nomi è Laura. Laura, infatti Laura Vanossi è felice. Renato, grazie. Scriverò una canzone per Nicoletta, dai. Ma magnifico, io sono emozionata perché anch'io sono timida. Dottor Aquilar, noi dobbiamo parlare della canzone che abbiamo scelto, che ha scelto lei da suggerirci per la giornata, ma io ho ancora tanti ascoltatori. Vorrei sentire ad esempio Fernanda da Savona che ci chiama all'800240024. Fernanda, rapidamente, buongiorno. Sì. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Senta, io volevo qualche consiglio. Sono la mamma di un figlio adulto, timido e introverso. Questo problema, diciamo, questo suo carattere gli crea problemi anche nell'ambiente di sì, lavoro. Ma quanti anni ha Fernanda questo bambino? Nel senso che ha delle reazioni eccessive. Volevo avere qualche consiglio dal sì, professore. Fernanda, ma scusi, ma questo perché per noi mamme restano sempre bambini. Il suo bambino, il suo ragazzo, quanti anni ha? Perché questo gli crea dei problemi. Perché grande, poi reagisce in una maniera sbagliata. Dottor Aquilar, una mamma preoccupata per un, io ho detto bambina, ma naturalmente si capisce, grande, una persona grande che poi è proprio ingabbiato dalla sua timidezza, rischia di avere delle reazioni che insomma in qualche modo gli nuociono. Al primo posto ci sarebbe quello di invitare la persona a conoscere un po' di più la timidezza, quindi a leggersi un libro, che è una cosa che i timidi fanno benissimo, che potrebbe dargli una mano a capire un po' meglio la sua situazione, perché se siamo di fronte ad una timidezza leggera, la timidezza leggera può passare con alcune istruzioni e sì, con l'esperienza, ma se siamo di fronte ad una timidezza più strutturata forse serve una psicoterapia. Sì. Leggere un libro può aiutare la persona a capire in quale categoria si deve mettere. Abbiamo un libro da suggerire per i timidi? Sì, quello di Pietro Grimaldi che si chiama A quale timidezza appartieni? E che è edito dalla Franco Angeli. Perfetto. E noi invece andiamo, torniamo da dove siamo partiti, al Festival di Sanremo. Dottor Aquilar, abbiamo un minutino perché chiacchierando e chiacchierando il tempo è passato. Noi, lei ha scelto per noi? Ho scelto Vivo Sospesa di Nathalie. Vivo sospesa tra sogno e quotidianità, io m'ero persa per strade sconosciute, già cambiate prima di arrivare. Dottor Aquilar, Vivo sospesa, beh, già ce la dice lunga. Tipico delle persone della sua generazione, Nathalie ha 31 anni, che lei, che è una cantautrice, esprime benissimo con questa melodia di pianoforte leggermente ripetitiva e che oscilla tra l'angoscia e la speranza, e racconta una situazione di una generazione che si trova sempre sospesa tra mille situazioni, e la cosa carina è che l'autrice utilizza questa sofferenza della sospensione per utilizzare il dolore come un punto di forza e per utilizzare la musica per rendere più digeribile uno stato di sospensione che altrimenti diventerebbe tremendo. Dottor Aquilar, a chi la consigliamo? La consigliamo a tutti coloro, soprattutto se sono nella generazione dei trentenni, che si trovano sempre in una condizione di sospensione e a volte possono sentirsi paralizzati. Questo è un modo di elaborare quel momento di sospensione e di riutilizzare questa interruzione forzata delle attività per aumentare le proprie capacità mentali ed emotive e quindi per diventare più forti poi nel momento in cui la fase di sospensione in un modo o nell'altro finirà. Dottor Aquilar, noi ci sentiamo domani. Grazie, sì, grazie per essere stati con noi, a domani. Essere e benessere.